Noi partiamo da un giudizio di fondo sulla natura di questa società. Diciamo che il sistema capitalistico è un sistema fallito, che c'era stato presentato 30 anni fa dopo il crollo del muro di Berlino come il nuovo orizzonte del progresso dell'umanità, e che dopo 30 anni si mostra per quello che è: un sistema sociale basato su uno sfruttamento sempre più intenso dei lavoratori, a partire dai giovani lavoratori, che saccheggia quotidianamente pensioni, sanità, istruzione, protezioni sociali, e che compie questo saccheggio per tenere in piedi il parassitismo del capitale finanziario, cioè per riempire i portafogli di una piccola minoranza di grandi azionisti, banchieri, manager, che concentrano nelle proprie mani tutte le leve del potere. La chiamano democrazia, ma dal nostro punto di vista è la dittatura dei capitalisti sulla società. Noi pensiamo che senza mettere in discussione questa dittatura, e fuori quindi da una prospettiva anticapitalistica e rivoluzionaria, siamo condannati a vivere l'eterno presente che viviamo ogni giorno. Purtroppo è un presente di progressivo imbarbarimento da tutti i punti di vista. Da qui viene anche la critica ad altre formazioni di sinistra, mentre è facilmente ipotizzabile, insomma, quella su Liberi Uguali, anche su Potere al Popolo, insomma, non vi convince? Ma guarda, noi rispetto a Potere al Popolo abbiamo due elementi di fondo, di differenza. Uno riguarda il bilancio del passato e l'altro riguarda la prospettiva generale. Il bilancio del passato, che naturalmente è sempre un elemento importante quando ci si presenta alle elezioni, perché la propria identità è filtrata anche dal percorso che si è compiuto. Ora, Potere al Popolo è fondamentalmente, parlandoci chiaro, la lista di Rifondazione Comunista e altre formazioni vicine a Rifondazione. Insomma, Fondazione è un partito il cui gruppo dirigente nella sua evoluzione si è reso responsabile, corresponsabile di politiche pesanti in passato, cioè il coinvolgimento dei governi Prodi con l'introduzione del lavoro interinale, con la detassazione dei profitti delle imprese. Vorrei ricordare l'ultimo governo Prodi, in cui era ministro quello che poi sarebbe divenuto segretario di Rifondazione, ha realizzato la più grande detassazione dei profitti che probabilmente il capitalismo italiano abbia conosciuto negli ultimi 20 anni, per intenderci. E quindi questo è un elemento che obiettivamente pesa e distingue i percorsi e le responsabilità. Ma c'è soprattutto il problema della prospettiva, perché noi non ci limitiamo a rivendicare una diversa politica economica nel quadro capitalistico, perché ci sembra la riproposizione di un'eterna illusione. Basta vedere l'esperienza del governo greco di Tsipras, no? Che veniva presentato 2 anni fa come il punto di svolta, il nuovo orizzonte del futuro, che da 2 anni gestisce le politiche della Troika in Grecia. Per dire che dentro il sistema capitalista, al di là delle chiacchiere e delle evocazioni della sovranità popolare o del potere del popolo, a comandare sono sempre i capitalisti. E quindi il problema vero è mettere in discussione il sistema capitalistico per quello che è. Questa prospettiva anticapitalistica rivoluzionaria solo la nostra lista la esprime. E proprio sul sistema voglio farti un'ultima domanda. Tu sei una lista che si propone come alternativa contro il sistema capitalistico. Perché secondo te, almeno nelle narrazioni mediatiche, ma anche con gesti che purtroppo abbiamo visto anche di recente a Macerata, fa più presa una risposta xenofoba, razzista e neofascista? Perché purtroppo si è prodotto un arretramento profondo del movimento operaio, dei livelli di mobilitazione, anche del senso comune, della coscienza collettiva. Perché quando i gruppi dirigenti della sinistra italiana hanno abbandonato il proprio popolo di riferimento, la sua rappresentanza, hanno perciò stesso, tanto più negli anni della grande crisi, favorito l'ingresso, l'apertura del varco per suggestioni reazionarie, anche particolarmente regressive. Oggi è indubbio che il terreno del confronto pubblico, lo vediamo anche in questo confronto elettorale, è sempre più segnato, diciamo, dalla destra, dai contenuti della destra, il respingimento dei migranti, la domanda di sicurezza, con tutti i partiti dominanti che in qualche modo subiscono questo terreno di confronto o lo gestiscono in prima persona. Il problema di costruire un'altra prospettiva, e cioè di impegnarsi nelle lotte quotidiane, lavorare per l'unificazione delle lotte, ma ricondurre una prospettiva di rottura anticapitalistica è il tema della costruzione di un'altra sinistra italiana. Questo è il senza costruire un nuovo punto di riferimento politico e una nuova prospettiva non si costruisce neanche una linea efficace di resistenza rispetto alla deriva reazionaria in atto.